Se qualcuno vuole iniziare, io gli porto il microfono, sono a disposizione, devo solo vedere delle mani alzate. E qualcuno che rompa il ghiaccio, eccola qua, l'abbiamo trovata. Intanto grazie mille, perché ci ha dato diverse, tante prospettive. Io poi ho la gioia di avere diversi figli, per cui mi porterò a casa diverse... L'ultimo che mi tengo nel cuore è sul fatto che il figlio dai 10 ai 13 anni fa questo crash test contro di noi. Più ci vede saldi e più ci dà da botta, lo condividerò con mio marito di sicuro, così ci tranquillizziamo. Le volevo chiedere questo. Sì. Tante volte, io come genitore, mi sento che ho, diciamo così, una certa quantità di buone competenze, no? Però la fatica, perdo la pazienza, alle volte mi incantono io da sola in posti dai quali poi è difficile uscire con la relazione con mio figlio. Sto pensando a delle scene, le calze, sì, no, mettiti quelle calze, mi fanno male al piede, insomma, tutte queste cose qua. Le volevo chiedere, come si fa a tornare indietro? Cioè io ogni tanto mi rendo conto che perdo la pazienza malamente e che questo non causa nessuna produttività, cioè è proprio una cosa improduttiva. E nonostante tutto lo faccio, perché urlo, perché strepito, perché la giornata è stata faticosa, perché... Mi dà per favore una via d'uscita da queste situazioni, un aiutino. E poi l'altra cosa, mi sono resa conto che, anche se appunto la vita mi ha dato la gioia di avere dei figli e l'esperienza va crescendo, no? Ho il mio immaginario che tutte le volte che i miei figli mi fanno una domanda, io devo essere pronta a rispondere. E invece ci sono tante volte che io non so proprio che cosa dire. Allora le volevo chiedere, prendersi del tempo, cioè è segno che non sono abbastanza preparata o posso dire facciamo pausa, voglio un aiutino, come si fa nei quiz in televisione? Grazie. Allora, è una bellissima domanda questa, perché, mi fa pensare proprio alla, come dire, a quello che è un ruolo che una persona ha, il ruolo del genitore in questo caso, no? Ecco, io, a me viene da dirle subito questo, che non esiste il genitore perfetto. Molto spesso noi abbiamo in mente di poter fare tutte le cose giuste. Non esiste il genitore perfetto, non esiste l'insegnante perfetto, non esiste il figlio perfetto. A volte il problema è vivere, come dire, una situazione, sì, nella realtà, ma anche avere un'idealità troppo accesa, quindi tendere a vedere quella situazione come dovrebbe essere, non come è. Mi viene anche da dire che nel momento in cui il nostro bambino ci propone... Sta fischiando il microfono, scusate. No? Ah, ok. Ecco, il nostro bambino ci propone delle tematiche oppositive, cioè manifesta un'oppositività, come si può dire, molto fastidiosa e che ovviamente fa perdere la pazienza, è anche normale per un genitore perderla la pazienza e potersi legittimare e dire, cavoli, io in questa situazione sono umano e quindi mi arrabbio e quindi divento triste, quindi non so cosa fare e quindi in questo momento decido di mettere da parte la cosa e riaffrontarla più avanti, cioè potersi legittimare come esseri umani, come persone normali che vivono delle emozioni. Anzi, molto spesso la capacità del genitore di fare quella introspezione di cui abbiamo parlato prima, quindi poter vedere dentro di sé che cosa gli sta succedendo, diventa funzionale e positivo per il rapporto. Io in questo momento sono molto arrabbiata, non riesco a parlare. Questo atteggiamento mi fa sentire in questo modo qui. Se noi riusciamo di volta in volta, rimanendo nella realtà che stiamo vivendo e non immaginando una realtà perfetta che non esiste, a rimanere in contatto con noi stessi, a capire come ci sentiamo, forse riusciamo a capire che, riusciamo a dimostrare al nostro bambino che noi siamo in grado di leggere le nostre emozioni e quindi può farlo anche lui, che l'emozione ad esempio trova un posto nel nostro rapporto. Mi vengono in mente le parole di una mamma che mi raccontava del suo bambino di 7 anni, quasi 8, che a un certo punto le sembrava cambiato, perché prima erano, come dire, sempre molto uniti, molto anche simbiotici. Questa mamma un po' simbiotica, quindi stava sempre molto vicina al suo bambino, a volte sostituendosi anche un po', eccetera. Che a un certo punto mi dice: ma perché fa così? Perché Matteo mi rifiuta o mi sembra arrabbiato? E insomma, insieme o comunque cercando di sviluppare un po' uno sguardo verso quello che le stava succedendo, si è resa conto che il fatto che suo figlio stesse crescendo, lei lo riconosceva poco e quindi tendeva a trattarlo come un bambino ancora piccolo, diciamo. Invece lui le stava chiedendo di essere, come dire, riconosciuto anche nei suoi piccoli cambiamenti, nella sua crescita. E il fatto che la mamma non riconoscesse questo passaggio lo faceva sentire rifiutato. Era come se la mamma gli passasse, senza volerlo, un messaggio del tipo: se diventi grande non ti voglio più bene, o non ti sto più vicina. Ma in realtà era una fatica della madre a stare vicina o ad adeguarsi, l'abbiamo detto prima, no? Il cambiamento diventa molto faticoso, i momenti di passaggio. Per il bambino è fisiologico, quindi loro vanno avanti come treni e noi dobbiamo starli dietro. Ma noi a volte stentiamo, no? A capire, a drizzare il tiro, a ricentrarci su quello che è il rapporto. E in più c'è anche proprio un elemento di realtà che si deve tenere presente, che è la fatica della vita di tutti i giorni, la fatica del correre, i tempi, i ritmi che la società ci impone. Probabilmente col dottor Aceti l'altra volta avete parlato proprio del cambiamento della società, e quindi si diceva, no, che un tempo c'erano anche degli spazi diversi per poter stare col proprio figlio. Adesso si può tanto dire che la qualità del rapporto è quella che conta, ma e i sintomi dei bambini ce lo dicono, i bambini a volte hanno proprio bisogno di presenza. La presenza vuol dire che non è che noi stiamo sempre bene, ma ci possono essere anche degli scontri, ci possono essere anche delle fatiche, come quelle che viviamo in tutti gli altri rapporti. Mi viene in mente un papà che mi diceva: ma dottoressa, ma io mi immaginavo di stare lì sul divano, guardare la partita con mio figlio, invece questo mi ecco, vedo degli assensi, invece questo mi porta fuori, mi fa impazzire, io non posso nemmeno stare seduto, ma non posso nemmeno accendere la televisione, perché quindi proprio da questa idea, no, questa come dire, questo pensiero un po' idealizzato di sé, il proprio bambino sul divano a guardare la partita di calcio, cioè, per arrivare a quel punto si doveva passare, proprio questo papà doveva fare le fatiche di Ercole. Ma perché il rapporto lo richiede? Noi non possiamo pensare di avere qualcosa di già costruito da subito, dobbiamo metterci dentro quella situazione e come dire, costruirla giorno per giorno, no? Quindi mi viene da dire, e spero che questo possa rasserenare voi genitori e rasserenarla, nel senso, lei che ha fatto la domanda, che la fatica che si vive è proprio normale ed è importante riconoscerla, perché così ci si può dire: non sono un genitore perfetto, perché i genitori perfetti non esistono. E posso permettermi di esprimere quello che sento, perché ci sono anch'io in quel rapporto lì. Non devo avere sempre la risposta giusta. Devo semplicemente essere in grado di accettare il mio bambino per quello che ha e per quello che è, e cercarle insieme delle risposte. C'è una domanda lì. Ciao, io ho due figli, uno di 5 e uno di 10 anni. La mia domanda era questa. Il concetto di meritocrazia, è giusto insegnarlo? E se sì, come si insegna a due bambini di un'età del genere? Ecco, mi puoi spiegare meglio cosa intendi? L'esempio il gioco. C'era il professore Aceti. Diceva, i bambini dovrebbero avere, a prescindere, la paghetta settimanale, no? Per esempio, sì. Era entrato questo discorso. Ok, benissimo. Però, caspita, ci sono delle volte che, ora non penso di essere l'unico, tirano fuori di testa, cioè magari una settimana si comportano malissimo per un qualcosa o per un'altra, E poi dici, ma come, io in questo momento li sto premiando? Punto di domanda. Cioè, a me viene un po' in mente questa cosa qua, ma non è solo il discorso della paghetta. Tra il fatto di avere dei benefici o delle cose che, secondo me, a mia idea, magari da adulto, e forse sbagliata, una persona dovrebbe meritare, e non, cioè, arrivare a conquistare, e non a prescindere. Allora, io sono molto d'accordo sul, prima l'ho accennato diverse volte, sulla possibilità di dare un limite a quello che può essere il comportamento del bambino ragazzo che poi diventerà adulto, anche perché molto spesso si vedono anche adulti, no? Che hanno un io, un ego esasperato e anche personaggi pubblici piuttosto che, e quindi come dire, lì uno può pensare che le cose non siano andate proprio benissimo da quel punto di vista, no? Ecco, però dare il limite non vuol dire punire. Cioè, allora, se io do una paghetta, adesso facciamo questo esempio, può essere qualsiasi cosa, a mio figlio, gliela do perché la merita, perché la merita? Perché quella cosa diventa simbolica per il suo passaggio di autonomia. Allora, prima l'abbiamo detto, la separazione e individuazione, uno dei regali più grandi che possiamo fare a nostro figlio è quello di renderlo una persona autonoma, capace di gestirsi, di fare da sé. Quindi ci sono mamme che dicono, ma io non so ancora adesso, ho 13 anni, allora torna dal calcio e la sua borsa sempre lì con le cose sporche. Ok. Questa cosa qui non va bene, bisogna insegnare al bambino a prendersi cura delle sue cose, non togliendogli delle cose o dei benefici che noi gli diamo, perché lui deve sentire, l'abbiamo detto prima, di essere meritevole, di essere una persona meritevole, quindi l'amabilità, cioè io sono amato, vengo amato, perché me lo merito, a prescindere, indipendentemente da tutto. Quindi la paghetta è una costante, non dobbiamo togliergliela, dobbiamo semplicemente andare a insegnare un'autonomia, una responsabilità sulle cose che in quel momento lì non stanno andando per il verso giusto. Prima nella sua domanda c'era anche proprio un accenno al fatto che mi hanno tirato fuori e quindi gli tolgo la paghetta, punto di domanda. Ecco, questo mi hanno tirato fuori è sempre il discorso che facevamo prima, cioè rimanere dentro il rapporto per poter vivere anche quella fatica e quella, come si può dire, quel momento critico, storico critico della relazione col proprio figlio. Anche perché quando i bambini fanno così, quindi ci tirano fuori, c'è sempre un messaggio che ci vogliono trasmettere. E quindi noi è su quel messaggio che dobbiamo lavorare, è quella cosa lì che dobbiamo continuare a chiederci. Non tanto pensare a come insegnargli con metodi coercitivi, diciamo così, il senso del limite. Il senso del limite dobbiamo insegnarglielo cercando di capire il messaggio che il bambino ci sta comunicando. E poi sapete, quando i bambini ci tirano fuori, ci sono bambini che lo fanno così, facendo impazzire i genitori, altri bambini che lo fanno ad esempio con un'eccessiva lentezza. Ad esempio c'era una mamma che mi diceva, io arrivo dal lavoro alle 7 e mio figlio per scrivere una frase mi ha aspettato fino a quell'ora per fare i compiti, ci mette 2 ore. Ma questo sintomo che ha portato questa mamma alla Wompia dove io lavoravo a fare una valutazione, proprio perché era di una lentezza esasperante, la mattina per infilarsi le scarpe ci metteva 3 ore, cioè arrivavano sempre tardi a scuola, cioè un disastro. Questo sintomo da parte del bambino era un modo per chiedere al genitore una vicinanza, il rapporto. Allora, in quel caso funzionava così. Nel nostro caso, che cosa stanno cercando di dirci questi bambini quando ci tirano fuori? Forse vogliono dirci, voglio stare in rapporto con te. In che modo? E lì dobbiamo proprio studiarci delle possibilità, dobbiamo cercare di capire in che modo avvicinarci di più. Però ecco, il metodo della punizione io credo che sia sbagliato, e non è assolutamente un, come dire, un rinforzo positivo al loro comportamento negativo, perché se noi non associamo le due cose, i bambini non ci pensano nemmeno. Cioè, loro non pensano che hanno ricevuto una mancia ma si sono comportati male. Questa è un'associazione che facciamo noi. Cioè, se noi gli diamo costantemente la loro mancia, perché quella è una cosa stabilita e loro meritano comunque di imparare a gestire quei soldi lì, ma dall'altro lato, nel momento in cui si comportano male, cerchiamo di stare in rapporto con loro e capire che cosa ci stanno dicendo, allora loro non metteranno, non associeranno le due cose. Le ho risposto? Ok. Allora, c'è una domanda qui davanti. Volevo chiederle una cosa. Sì. È possibile che una mamma sia troppo presente nella vita del figlio? Tipo, mio figlio ha 6 anni e fa sport, fa una cosa che gli piace e fa catechismo, ma purtroppo lo sport e il catechismo combaciano con sua mamma che fa l'allenatrice e la catechista. Per cui è possibile che lui possa avere non abbia un punto di riferimento che può essere un allenatore, cioè uno con cui si può confidare, piuttosto che per me è stato quello nello sport. Alla fine l'allenatore era un punto di riferimento per me, che era al di fuori della famiglia. Allora, in questo caso più che possibile è probabile che sia così, nel senso che suo figlio comunque la vede 24 ore al giorno. Quindi materialmente, logisticamente, diciamo che è proprio così, è la realtà che suo figlio sta vivendo. Anche secondo me sarebbe meglio differenziare le figure, perché è strano, però a volte ci sono dei genitori che parlano con, come diceva lei, no? Con l'educatore, piuttosto che con le figure di riferimento, l'insegnante e così via, e scoprono un bambino diverso. Io sto seguendo un bimbo che è dolcissimo, lui è figlio di due genitori che si sono separati ed è rimasto impigliato in questa separazione, terreno di conflitto e così via. E sono andata a parlare con le insegnanti, dove Daniele, così si chiama, sta molto migliorando. E le insegnanti nel colloquio con la madre dicono: ma Daniele è molto bravo, fa questo, risponde in questo modo. E lei in studio, viene in studio da me e dice: mi hanno descritto un bambino che non conosco. Cioè, allora, i bambini riescono a mettere in campo delle risorse, delle competenze diverse con persone diverse. E forse incontrare persone diverse gli permette di sperimentare delle parti di sé che nemmeno loro sanno. Ecco. Poi sicuramente lei, anche il fatto che si ponga la domanda, è una mamma attenta a questo, quindi si chiede, ma è giusto, è sbagliato, cosa? Però, ecco, è molto probabile, non è il suo caso, però ci sono molte situazioni in cui purtroppo si tende a vedere il bambino come un bambino non competente, come un bambino da proteggere, da iperproteggere, e questo sempre di più. Quindi attenzione al rischio di diventare anche invasivi in quella che è la vita del bambino, che non gli permetterebbe di maturare un senso di sé come bambino capace di cavarsela da solo, di fare delle cose da sé e sapere che può riuscirci. Ecco, questo è un pochino il rischio. Prego. Aspetti che le portano il microfono così sentono tutti. Buonasera. Ah, ecco, c'era quella signora. Noi sì. Abbiamo due figlie nel periodo della latenza, sì. 7-10 anni, che forse più che latenza è latitanza, perché infatti mi sembrerebbe più corretto definirlo così, perché la regola che gli diamo dura un giorno, poi non sparecchiano, meglio, sparecchiano il tavolo un giorno, il secondo giorno solo il piatto, il terzo solo il bicchiere e il quarto si fanno gli affari loro. Allora, normalmente io dico qualcosa. Mia figlia mi tratta male, non riesco a rispondere male a mia figlia perché mi sembra di abbassarmi al suo livello. Mia moglie dice: a 18 anni ti sputa in faccia, se a 9 ti tratta male. Può succedere questo, secondo lei? Allora, mi fa un esempio concreto del... cioè, mi dice... mi rappresenta una vignetta, no, di rapporto, quindi In che modo la tratta male sua figlia? Ecco, allora, gli dico, vieni a sparecchiare perché non l'hai fatto. No, ho altro da fare, lasciami in pace e va a giocare. Io non riesco ad arrabbiarmi perché sono mite nel mio essere. Sono sicuro di essere, nonostante ciò che dicono gli altri, però sono sicuro di essere mite. E dunque mi sembra, nell'arrabbiarmi, di mettermi ad un livello sbagliato, cioè di mettermi ad un suo livello. E le volte che mi sono arrabbiato mi sono sempre pentito di essermi arrabbiato, perché alla fine non ho ottenuto quello che avrei voluto ottenere. Quindi secondo lei è meglio che io segua la mia mitezza, cioè è meglio che io segua il mio essere, o che cerchi di essere come i padri che erano molto più arrabbiati, che poi hanno fatto dei figli come noi molto bravi? Allora, bella domanda. No, io direi che è sicuramente importante seguire la propria natura, non possiamo prescindere da questa, ahimè, viene da dire, perché poi nel caso in cui sia una natura mite va bene, nel caso in cui sia una natura di altro genere, insomma, il cambiamento, l'abbiamo detto prima, in età adulta è molto difficile. Quindi non si può prescindere da questa, però per il solo fatto che lei si fa questa domanda vuol dire che comunque in modo conflittuale vive dentro di sé questa situazione. Quindi oscilla da un polo all'altro dicendo è giusto o è sbagliato, è giusto o è sbagliato, come un pendolo. Ecco, già questa conflittualità è indice del fatto che bisognerebbe comunque prendere in considerazione la cosa. Cosa intendo? Che è giustissimo seguire la propria natura, la propria indole, è altrettanto giusto non arrabbiarsi, quindi non scendere al livello del ragazzo. L'abbiamo detto prima, noi siamo, deteniamo quel rapporto lì, cioè nel senso siamo quelli capaci di metterci ad una posizione superiore, ma non nel senso gerarchico, no? Come era inteso un tempo, in modo autoritario. Ma metterci in una posizione terza, ecco, io utilizzo questa espressione per rappresentare che non è una questione di scaletta, è una questione proprio di cercare di differenziare e di creare un punto di vista esterno, quel rapporto lì, dove sappiamo che comunque il senso della responsabilità è qualcosa di non innato, ma che dobbiamo impartire noi. Allora, questa cosa si può fare non esclusivamente attraverso l'arrabbiatura, piuttosto che, come si può dire, la forza, eccetera, cercando dentro di sé di capire come restituire quel limite al proprio figlio. Ad esempio, sto seguendo una mamma in studio che ha una bambina che ha avuto un rifiuto scolastico, quindi non andava più a scuola, e vi assicuro che quando i bambini si impuntano e non vogliono andare più a scuola non ci vanno più. Uno sembra assurdo perché dice come nella scuola si deve andare, è normale, si esce al mattino, si va a scuola, eccetera. No, ci sono delle fobie scolari, così vengono definite, dove il bambino e soprattutto l'adolescente si impunta e non va più a scuola. E il genitore, in quel caso lì, non può dire, ah sì, va bene, allora non andare più a scuola, è un'inclinazione mite e quindi l'istruzione, vabbè, saltiamo. No, non è possibile fare così. Bisogna comunque restituire un senso di responsabilità, ma anche rispetto a se stessi. In quel caso, questa mamma all'inizio ha cercato di avvicinarsi a questa bambina con la quale purtroppo si erano create delle distanze nel rapporto. Dopodiché ha iniziato a, riuscendo a fare degli spostamenti col lavoro, ad accompagnarla ogni mattina a scuola. Adesso pian piano l'accompagna non sempre, qualche mattina sì e altre no. La cosa che fa quando vede che Alessandra, così si chiama, è molto lenta nel prepararsi, quindi lei rischia di far male, è dire... Prima si arrabbiava, era molto ansiosa, ripeteva sempre in continuazione muoviti, dai, fai in fretta, metti le scarpe, no, se vuoi in ritardo. Adesso ha iniziato a dire, guarda Alessandra, io ci tengo tanto ad accompagnarti a scuola, voglio proprio fare il tragitto con te, camminiamo, chiacchieriamo, eccetera. Però se tu fai tanto tardi io vado alle 8 e dovrà portarti la nonna, e a rispettare quello che ha detto, quello che dice. Quindi c'è un modo anche, come dire, non aggressivo di poter dire qualcosa che al ragazzo serve, perché comunque è importante che se questo ragazzo, questa ragazza ha un compito all'interno della famiglia, possa pian piano imparare a rispettarlo. Sì, c'era una domanda. Io ho un bambino di 3 anni e uno di 18 mesi e alle volte proprio sono molto in conflitto adesso, quindi volevo sapere come posso fare. I due bambini? Sì. Mi spieghi meglio, in conflitto nel senso? Nei giochi, poi alle volte sono molto, soprattutto quello più grande è più, non so, è protettivo, in alcuni momenti è più protettivo, in altri momenti... Allora, diamo un nome a questa cosa, si chiama ambivalenza, ti amo e ti odio, partiamo dal ti odio perché mi hai rubato il posto, perché hai preso un pezzettino di mamma e prima era tutta mia, perché è tutta una serie di cose, ti amo perché sei mio fratello, papà e mamma mi stanno insegnando che ci sei anche tu, sto imparando a farti uno spazio nella mia vita e così via. Quindi c'è anche proprio un legame affettivo. E quindi c'è proprio un'ambivalenza. Però se ci pensate, in ogni rapporto viene giocata un'ambivalenza. Pensiamo, tra marito e moglie, quante volte uno pensa, ma adesso io, cioè, ti ammazzerei perché fai questa cosa, te l'ho detto 200.000 volte, ma sei ripetitivo o ripetitiva. Piuttosto che, cioè non so come dire, ci sono delle situazioni nelle quali uno dice sì, ti voglio bene, ma anche no, cioè posso fare anche a meno di te in alcuni momenti. E questo succede ai nostri bambini, quando tra di loro entrano in conflitto e non si sopportano. Non è una cosa giusta e nemmeno bella, ok, se la mettiamo su un piano ideale, però nella realtà accade così. L'abbiamo detto prima, il bambino ad esempio di 3 anni non vive assolutamente quel gioco lì che è suo come un gioco condivisibile. Questo è il lavoro più difficile, più arduo per un genitore in quella fase, tanto più se questo bambino nuovo che è nato, sono due maschietti ad esempio. Sì. Ecco, ad esempio una cosa bellissima potrebbe essere in questo caso la possibilità di giocare simbolizzando, quindi il gioco simbolico, quello di cui si parlava prima, questo conflitto che rimane latente in alcuni momenti, in altri momenti invece sfocia in quella che viene definita ambivalenza. Ecco, in che modo? Col gioco della lotta, ad esempio. Uno dei giochi più belli che possono fare i maschi con il proprio papà, con il proprio fratello maggiore, è proprio il gioco della lotta. C'era un ragazzino che seguivo, che era ormai grande, che per sbaglio, aveva un fratellino più piccolo, che per sbaglio una volta, facendo il gioco della lotta, non ha tanto giocato, erano sul lettone, l'ha centrato in pieno con un cazzotto. Ecco, lì è stato proprio un atto mancato, quello che Freud definirebbe atto mancato, nel senso che non ha tanto simbolizzato in quel caso, ma come dire, ha centrato il bersaglio. Perché dico questo? Perché purtroppo l'ambivalenza che c'è tra fratelli è una cosa normale e noi dobbiamo come genitori imparare a gestirla e piano piano riuscire a rinforzare quelle che sono le parti migliori, quindi quando questi bambini vanno d'accordo, cercare di rinforzarli positivamente e restituirgli il messaggio che sì, va bene, non è facile magari in alcuni momenti condividere delle cose, ma è possibile. Quindi siamo noi, in fondo, in quella fase lì, a dover essere più contenitivi e, come dire, supportare loro nella scoperta che c'è una possibilità anche positiva di rapporto. No, perché alle volte il più piccolo poi lo morsica. Mi spieghi, no, non ho capito. No, dico, il più piccolo è molto combattivo, nel senso, sì. Perché alle volte lo morsica e io non so a chi dare ragione. E lei? Non so a chi dare ragione, se al più grande o al più piccolo. Ecco, lei non deve dare ragione mai, né a uno né all'altro, perché poi bisogna vedere nel caso specifico. Prima vi ho fatto l'esempio di un bambino che, come dire, aveva proprio una fatica, faceva fatica rispetto ad alcune cose. E allora lì magari vale la pena parlarne, approfondire un attimo l'argomento, eccetera. Però laddove questi conflitti sono conflitti legati proprio al fatto che ognuno vuole tenere per sé le cose che ha, l'egocentrismo intellettuale di cui parlavamo prima, allora non bisogna dare ragione. Bisogna semplicemente continuamente passare il concetto che, allora, questo gioco qui adesso si usa insieme, se non possiamo usarlo insieme lo mettiamo via. Non hai ragione né tu né tu, perché poi in fondo a volte capita di arrivare a giochi fatti e quindi di non sapere nemmeno bene che cosa sia successo, perché ci sono versioni un po' contrastanti magari, no? Ecco, come quando... però, appunto, la cosa importante è che noi ci poniamo sopra le parti e che gli insegniamo che eventualmente, anche se abbiamo subito qualcosa, possiamo imparare a gestirlo in un modo meno conflittuale. Sì. Buonasera. Buonasera. Noi abbiamo due bimbe, una nell'età della latenza, come il signore. Infatti mi ricollego. Il professor Ceti aveva detto che le punizioni non servono a niente, se non sbaglio. Ecco, noi facciamo veramente fatica in molte situazioni a farci ascoltare. Cioè, l'obbedienza, quella dei miei tempi, che adesso magari non deve più essere vista in questo modo così rigido, però in qualche maniera il rispetto delle regole deve essere perseguito, ecco. Lei ha già dato qualche risposta, però dal punto di vista pratico io mi trovo molto in difficoltà. Prima domanda. Seconda. Ecco, mi fa un esempio però concreto per capire la situazione, cioè una situazione particolare che vivete. Che poi mi aiuti. Al mattino bisogna vestirsi, la piccola sta nel letto. Alzati, no. Oppure, è ora di cena, venite. No, aspetta, devo finire una cosa. Allora, se non venite... Le famose cose da finire. Se non venite, non accenderemo la TV. Non so su cosa far leva. Cioè, proprio ascoltare la richiesta del genitore. Sì. Poi, sempre il professor Aceti aveva la volta scorsa parlato del ruolo del papà, che lei ha accennato in due circostanze. Mi piacerebbe, se fosse possibile, approfondire un pochino questo aspetto nell'età della latenza. Sì. Perché effettivamente aveva detto, qui le mamme c'è un'età in cui dovrebbero proprio... non è... Lui usa l'espressione FDB, che non è molto carina, è un po' colorita. No, ma a me interessa, perché ha detto che dovremmo uscire, insomma. E quindi è interessante, sì. No? Vorrei capire come... Sì, tra l'altro i due, bella domanda, nel senso che i due aspetti sono correlati effettivamente, attenzione, perché, allora, parto dalla seconda domanda. Allora, il bambino che entra nella scuola primaria, quindi l'età di latenza, è un bambino che oltre ad entrare a scuola e a vedere dei cambiamenti nella sua vita, è un bambino che entra anche nella realtà. Claudio Risè, da questo punto di vista, ha descritto benissimo la situazione. C'è un libro che si chiama Il padre assente inaccettabile. È un libro molto bello, dove addirittura questa presenza paterna viene raffigurata da un'immagine, e su questo ci troviamo molto in linea, anche col dottor Aceti. Io ho sentito che anche lui parla a volte di questo libro, che è molto bello. Risè è un analista junghiano che ha affrontato molto questo aspetto, non soltanto il ruolo del padre nella famiglia, ma anche il ruolo del padre nella società. E l'immagine che lui restituisce è questa, no? Una tribù aborigena dove ci sono delle mamme sedute a terra, a gambe incrociate, con i bambini piccoli, quindi di circa, non so, qualche mese, o comunque tra le braccia, e questi padri danzando prendono, si avvicinano danzando, prendono questi bambini e li alzano verso il cielo. Quindi da una posizione orizzontale questi bambini passano ad una posizione verticale, tendono a. E questo è proprio il ruolo del padre. È il ruolo del padre che restituisce al bambino la possibilità di aprirsi al mondo. E nel ruolo del padre ci sta anche la possibilità di restituire al bambino delle regole, dei limiti. Nonostante si concordino sempre insieme tra padre e madre le decisioni, a volte il fatto che il papà dica una cosa, il fatto che il papà magari sia la persona meno presente durante la giornata, a volte capita così nella maggior parte dei casi, ma non è detto, restituisce al bambino una doppia, come dire, una forza doppia del messaggio. Quindi effettivamente il padre detiene questo ruolo, diciamo, di quello che riesce anche a restituire un limite in un modo più incisivo. Ma questo si discosta da una visione autoritaria dell'educazione, perché voi sapete che l'autorevolezza, e quindi un atteggiamento comunque non coercitivo ma di vicinanza rispetto al bambino, può essere più incisiva addirittura dell'essere autoritari. E qui torniamo al discorso che molto spesso i bambini non fanno comunque quello che noi gli chiediamo. Si cena, un attimo devo finire di guardare la televisione. Ecco, l'ho detto anche prima, in questo caso i bambini stanno o manifestando una richiesta precisa di vicinanza, di ascolto, di possibilità di dialogo, e allora magari varrebbe la pena sedersi vicino a loro e cercare di capire perché ci stanno manifestando questo fare oppositivo, e in ogni caso ricondurli, andando noi incontro loro, ricondurli a cena, a tavola, perché è il momento, no? Quindi non come dire, lasciando correre questa cosa, ma proprio cercando di accorciare anche proprio i tempi, però andando noi fisicamente a metterci vicino a loro e cercando di capire ma perché, che cosa ti interessa di questo programma, che cosa stai guardando, sì, ho capito, però cercando di farli anche proprio ragionare con la vicinanza, ma facendogli capire che quella cosa lì è una cosa che dobbiamo fare adesso. Oppure, quindi, ci stanno richiedendo il rapporto, oppure semplicemente stanno esprimendo un'abitudine che loro hanno. Come dire, ma come, me la lasci sempre guardare, questa sera vuoi che venga subito a tavola, per dire, no? Cioè, bisogna essere anche noi, come genitori, molto costanti nelle cose che proponiamo ai nostri figli, riuscire a ripeterle in un modo anche abbastanza regolare, e non, se noi vogliamo che i nostri figli rispettino la regola, dobbiamo essere noi i primi a rispettarla sempre, quella regola. Quindi dobbiamo essere coerenti. Non so se riesco a spiegarmi, cioè avere proprio una costanza in quello che gli chiediamo. Perché il bambino da questo punto di vista è molto preciso e non ci lascia passare niente. Quindi se è capitato qualche volta che la cosa è andata diversamente, allora dice, vabbè, magari anche questa volta va così, quindi mi finisco di guardare la televisione, per dire, no? Per cui non dobbiamo demordere, dobbiamo mantenere una certa costanza, chiedere a loro di rispettare le regole, ma perché anche noi siamo in grado di mantenere una certa fermezza su quelle regole. E nel momento in cui si manifesta un'eccezione, verbalizzare che quella cosa lì è l'eccezione che conferma la regola. Ovviamente le regole devono essere regole assolutamente, come dire, di convivenza civile all'interno di una famiglia, non delle cose troppo esasperate, ecco. Però una convivenza civile comporta che ci siano dei paletti, no? E dobbiamo essere noi i primi a sentirli e a rispettarli. In questo il ruolo del padre è fondamentale. Se vi capita di vedere questo libro, acquistatelo, perché è veramente bello, anche proprio per i genitori, ha un linguaggio molto accessibile, insomma, a chiunque, per cui non per forza tecnico o specifico. Sì, allora il libro si chiama Il padre, due punti, assente inaccettabile, la punteggiatura anche. L'autore è Claudio Risé, la casa editrice non la ricordo. Claudio Risé. Allora, io ho una bambina di 3 anni. Non vedo la persona, scusate, ok. Ho una bambina di 3 anni. Sì. E quando ci sono stati dei cambiamenti nella sua vita, che può essere anche adesso l'asilo di settembre, che ha iniziato l'asilo, si viene a rifugiare nel letto di mamma e papà. È già capitato altre volte questa cosa, io l'ho sempre un po' assecondata. Quando vedevo quel momento che era più tranquilla, la riportavo poi nel suo letto, nella sua cameretta. E nel frattempo, quando dormiva con me, le ricordavo sempre che lei comunque aveva il suo posto nella sua cameretta, che quello era il suo letto. Mi viene da pensare adesso, a volte mettendomi un po' in dubbio, non è che magari andandole incontro alimento magari ancora di più in quel momento le sue paure o le sue difficoltà? Ecco, una domanda molto bella, nel senso che proprio mettersi in gioco, no? Mettere in gioco anche la propria emotività. Effettivamente mi viene da dire che a volte ci sono dei passaggi o dei comportamenti dei nostri figli che ci creano delle difficoltà, perché noi stessi, umanamente, facciamo fatica su quella cosa. Allora, è vero che se noi a volte non riusciamo a rimanere fermi su una convinzione, su una regola, ad esempio, ma perché mai? Io ho parlato con genitori, veramente, a volte faccio fatica anche a fargli capire, perché c'era questa mamma che mi diceva: mia figlia ha 12 anni e dorme ancora nel lettone, con l'altro figlio, quindi erano in 4 nel lettone, ed erano lei 12 anni, il figlio più piccolo aveva forse 10 o 9. Ma perché devo mandarli via? Cioè, perché devo creare a loro una sofferenza? In realtà io questi bambini li ho visti con delle occhiaie abbastanza marcate il giorno dopo, comunque. Ecco, però, no, quello che voglio dire, perché devo creare a loro una sofferenza? In realtà non è per loro una sofferenza. Si è risposta lei da sola, è stata bravissima, ha fatto tutto il percorso, no? Ha detto, forse non è una sofferenza, ma è che vado a non confermare, quindi a dare delle sicurezze, non confermo le sue paure. Per riuscire a dare delle sicurezze, prima dobbiamo ricercarle dentro di noi ed essere sicuri che quello che stiamo dicendo possa tranquillizzare il bambino, perché noi stiamo sicuri che andrà così. Quando il bambino dice, ma io ho paura che arrivino i ladri, se noi abbiamo paura che entrino i ladri, allora, perché i bambini molto spesso fanno questi discorsi, e allora noi non riusciamo a dirgli che non entrano i ladri, perché noi pensiamo che possano entrare da un momento all'altro. Dobbiamo noi trovare prima dentro di noi una base sicura, una piattaforma di sicurezza, e poi riuscire a trasmettere a loro una tranquillità, pur prendendo in considerazione tutte le possibilità. Questa cosa è fondamentale. Buonasera, io sono una mamma che ha 3 figli, uno di 9, una di 7 e uno di 3,5. Ricollegandomi al ruolo del padre, nella nostra famiglia i ruoli sono invertiti, quindi io ho il ruolo del padre e il padre ha il ruolo della madre, molto più chioccia. È lo stesso, nel senso, cioè l'importante è che ce ne sia perché è vero che seguiamo la nostra natura, ma la nostra natura è quella, io sono quella che fa rispettare la regola e il papà è quello che magari gliele dà anche vinte. Tanto che il bambino, infatti sono io, il bambino più piccolo pur non sentendo questo discorso, ha detto: tu sei la mamma a mio marito e tu sei il papà. Quindi è abbastanza chiaro anche per loro questa differenza. E parlando con mio marito mi ha detto: no, ma Aceti ha detto che basta che ce ne sia. Però non sì, sono no, tanto io sono d'accordo tra l'altro con zio Aceti, nel senso che le stavo proprio dicendo, no, sentendo la sua domanda, che è molto, molto bella, nel senso che va come dire, a sconvolgere anche quello che nell'immaginario è il nostro schemino sulla genitorialità, no? E Antonino Ferro, che è uno psicanalista che ha studiato tanto il rapporto, un esperto di relazione, dice proprio che nella mente di ogni essere umano esiste una parte maschile e una femminile, e che addirittura ognuno può compensare l'altra parte, quindi non so, un uomo può compensare facendo anche la parte più femminile, per cui l'importante è che ci sia il limite e che ci sia l'accoglimento. Poi all'interno della coppia, se la coppia è solida e raggiunge un equilibrio su questo, allora il bambino si sentirà comunque contenuto ed accolto allo stesso tempo senza problemi. Mi è capitato anche di seguire delle situazioni dove questo era, questa divisione era sbilanciata, cioè c'era questa bambina nata in un periodo molto particolare della vita della famiglia, per cui c'erano dei fallimenti, nel senso che questa coppia aveva comprato una casa, però la ditta era fallita, erano rimasti a vivere dai genitori, cioè una serie di cose che non avevano permesso a questa coppia di creare un nido mentale, tra virgolette, per accogliere questa bambina. E il papà aveva compensato alla depressione della mamma facendo da mammo. Lui durante il primo colloquio mi aveva proprio detto: io ho fatto da mammo, e la mamma mi diceva: io non ci sono stata. Ecco, in questo caso no, nel senso che la presenza di entrambi i genitori è fondamentale per il bambino. Questa bambina in effetti aveva sviluppato poi un sintomo molto particolare, compulsivo, che ci abbiamo messo anni per fronteggiare, nel senso per aiutarla a risolvere anche questa sofferenza, perché c'era stata proprio una mancanza primaria. Come uomo, se invece questa visione così maschile sono io, ho detto, cioè cosa... No, allora, questi diventa... sono stereotipi però. No. Ah, boh. Cioè, nel senso che l'uomo è l'uomo che in quel momento... Ma è lei il marito? No. Ah. Non sono io il marito, non sono io il marito. Ok. Il marito a casa guarda i bambini. Ah, ok. Okay. Però il marito è mio amico. Ok. Ah, sta allattando il piccolo. Io sono il padrino del piccolo, però. Perfetto. Ecco. Allora, no, lo stereotipo di, come dire, l'uomo non deve avere necessariamente quelle caratteristiche, può averne diverse, cioè l'uomo... il papà, il maschio che è il maschio della famiglia, ha quelle caratteristiche lì, quindi tendenzialmente suo figlio si identificherà con una figura paterna che ha quelle caratteristiche, ma va bene, cioè il fatto di dare un limite da parte nostra, quindi da parte del femminile, non implica il fatto che la mamma si trasformi in un maschio. Non so se riesco a spiegarmi. Il papà ha quella personalità, quelle caratteristiche lì, la caratteristica di accogliere, la caratteristica di contenere, la caratteristica di essere un pochino più permissivo e di stare vicino affettivamente. Va bene? Suo figlio assumerà come modello maschile quel modello lì. Anzi, la trovo una cosa rivoluzionaria e molto, molto bella, insomma. Mi rifaccio un po' al discorso della sicurezza, di dare sicurezza a cui aveva accennato poc'anzi. Sì. Ma allora, per noi è sempre stato molto importante tentare di dare dei punti fermi, delle sicurezze ai nostri figli, a partire dalla quotidianità, no? Cioè loro la sera si addormentano chiedendoci come funziona domani, no? per dire chi ci porta a scuola, che ora ci viene a prendere, chi ci porta a ginnastica, chi ci porta di qua, chi ci porta di là, forse perché abbiamo un'organizzazione anche abbastanza, insomma, complessa, però. Vero è che il risultato di dare sicurezza è in qualche maniera ottenuto. Il problema è che l'imprevisto viene vissuto come un tradimento, come un tradimento, nel senso che a noi viene da chiederci, perdiamo di credibilità rispetto all'imprevisto, no? Che chiaramente adesso al di là del, magari ti ho detto che ti vengo a prendere io e viene qualcun altro, però anche nel dare proprio questi punti fermi, queste certezze, anche la coerenza a cui faceva accenno prima, non sempre è facile o è possibile essere coerenti nelle cose. È vero che è giusto dire l'eccezione, bisogna dirle, l'eccezione che conferma la regola. Però ecco posso. Sì, anche questa è una bella domanda, nel senso che prima si stava parlando di regole, qui si sta parlando di una affidabilità, cioè quanto il mio genitore, quanto il papà, quanto la mamma sono affidabili. Il papà e la mamma sono molto affidabili, tant'è che i bambini hanno maturato delle sicurezze, e tant'è che i bambini si permettono di esprimere il loro disappunto nel momento in cui la mamma o il papà non ci sono. Ma questo è un problema per noi adulti, non è un problema per i bambini, che esprimono tranquillamente, come dire, l'esserci rimasti male perché quel giorno lì hanno incontrato una persona al posto della mamma che è andata a prendere. Cioè, noi dobbiamo permettere anche ai nostri bambini di esprimere quel disappunto, quell'esserci rimasti male, di esprimere, l'abbiamo detto prima, le proprie emozioni. E questo molto spesso è difficoltoso per gli adulti, ma perché gli adulti tendono ad essere molto metodici e ad organizzare. Allora, in questa organizzazione dobbiamo lasciare spazio anche per queste note di colore che riguardano proprio l'emozione più pura del bambino, che sono comunicazioni secondo me bellissime, perché ci sono bambini che si permettono di comunicare queste cose proprio perché, come dicevamo prima, c'è un rapporto. E quindi non andare in crisi di fronte a queste richieste o a queste comunicazioni. Ecco, io direi l'ultima domanda prima di salutarci, perché vedo che c'è gente che sta andando via. Quindi facciamo una domanda ancora e poi magari tiriamo un po' le somme e ci salutiamo. Allora, io volevo chiedere questo. Sono due domande insieme, ma... Sì. Una forse mi sono già risposta da sola. Ok. Tu mamma ti senti dire da tuo figlio di 4 anni e mezzo, dopo una bisticciata il giorno dopo, cioè non lo so, ma il papà se l'è sentito dire, per educare non bisogna urlare, per educare i bambini non bisogna urlare. Allora, una domanda è quella, forse magari io quando lo sgrido urlo troppo, e quella me ne sono già risposta, nel senso è vero, nel senso anche quando... Al mattino io uso questo metodo, guarda, se vuoi che ti porti io bisogna vestirsi, ma magari lo dico non in questa maniera ma in un'altra maniera. L'altra è, sentirti dire così da tuo figlio di 4 anni e mezzo è preoccupante, nel senso è troppo per un bambino di 4 anni e mezzo. Ecco, ma è suo figlio che glielo dice? L'ha detto a mio marito il giorno dopo che alla sera l'aveva sgridato. Mio marito non lo sgrida quasi mai. E lei, cioè, è il marito? Sì. Ok. Lui me l'ha raccontato alla sera. Sì. Io sono rimasta sconvolta da questa cosa. Ma effettivamente il termine educare è un termine molto preciso, molto specifico, che un bambino di 4 anni difficilmente utilizza. Probabilmente l'ha sentito. Però... cioè, dobbiamo anche pensare che effettivamente i bambini a volte ci rimandano la realtà in un modo molto diretto e molto centrato. E quindi forse il termine è un po' troppo, come si può dire, troppo elaborato, cioè troppo complesso per un bambino di quell'età. Ma tante volte i bambini ci mettono di fronte a quello che siamo noi. E quindi sì, io direi che vale proprio la pena interrogarsi sul messaggio che il nostro figlio ci sta mandando in quel momento, no? Quindi effettivamente ha ragione, non possiamo dire che non abbia ragione. Urlare non è, come dire, il metodo migliore per riuscire a passare dei contenuti, dei messaggi. E quindi anche se alcune comunicazioni ci colpiscono, è anche bello poter lasciare lo spazio per prenderne atto e farle proprie e far sì che diventino spunto di riflessione. Va bene? Okay. Grazie ancora. Grazie a voi. Buon viaggio di ritorno. Grazie. Grazie a tutti per l'attenzione e la partecipazione. Ci vediamo a febbraio, a febbraio, il 10 di febbraio, grazie della vostra partecipazione e grazie per le domande e il dibattito. Buonanotte.